e all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. Ebbene sì, alle 7:20 minuti leggiamo le notizie, lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Con, ricordo, Lorenzo Nespoli in redazione, insieme a Peter Bescapè in regia ora. E poi si aggiungeranno tutti. E allora, andiamo a leggere le notizie, cari ascoltatori. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a giovedì 29 giugno. E l'apertura del Sole 24 Ore dedicata alle previsioni, alle stime di Confindustria e il Centro Studi Confindustria, PIL 2017 rivisto a più 1,3%. Boccia, cioè il presidente di Confindustria, più valore al lavoro. Questo è il titolo di prima pagina. Per il resto, i giornali aprono quasi all'unanimità sulla situazione migranti, di cui ci occuperemo anche più avanti. Corriere della Sera, vietati i porti alle navi stranieri con i migranti. Repubblica, migranti, Italia pronta a chiudere i porti, sbarchi insostenibili, l'Unione Europea intervenga. La Stampa, migranti, l'Italia vuol chiudere i porti. Per Libero, blocco degli sbarchi. Il Giornale, chiudiamo l'Italia. Avvenire, migranti, sfida l'Unione Europea. Il Messaggero, l'Italia dice basta, porti chiusi. Il titolo porti chiusi è anche l'apertura del Giorno. Fronte del porto è il titolo del Manifesto. Il Fatto Quotidiano, migranti, il PD si butta a destra. Come vedete, quasi tutti i quotidiani aprono così. Solo La Verità apre sulla politica. È partita la caccia a Renzi, l'ex premier accerchiato. E anche questa è la notizia politica del giorno. Io voglio partire da che cosa? Una piaga di cui si parla poco e che invece oggi è sulle prime pagine dei giornali, dopo che è stato trovato un 14enne ciclista amatoriale dopato, è proprio il doping, per l'appunto. Emerge questa vicenda nel giorno in cui, appunto, a 14 anni il sogno di diventare un giorno come Nibali, come Aru, con la scorciatoia più facile, quella del doping, è stato trovato dopato un ciclista di 14 anni. Paolo Franci dedica un articolo sul giorno, a pagina 13, si parla di questa gara regionale con un giovane atleta siciliano, il test antidoping di routine effettuato sull'atleta da Nado Italia. Prassi normale, ma esito sconvolgente. Quel giovane risulta positivo a un potente steroide anabolizzante, il mesterolone. Non era mai successo con un atleta ragazzino, e una sostanza così pesante. Un record scioccante, difficile da comprendere, che ha fatto saltare dalla sedia gli uomini del Tribunale Nazionale Antidoping. Per il giovane nessuno sconto rispetto ai tesserati maggiorenni. Affronterà il processo per doping con rischio di incassare uno stop di 4 anni. Ed è proprio a partire da qui che sul Corriere della Sera c'è un'inchiesta dal titolo Dilettanti e doping. Marco Bonarrigo, pagina 18 del Corriere. Il doping in Italia è roba da vecchi e forse anche per questo la notizia del ciclista 14enne beccato positivo fa davvero scalpore. C'è tra i dopati l'agente di commercio toscano, ciclista 50enne positivo all'eritropoietina. Giura che il doping gli fa ribrezzo e che ai figli proibisce anche le vitamine, ma incalzato dal procuratore sportivo improvvisamente si ricorda del camionista dall'accento slavo da cui ha comprato integratori in un'area di servizio della 4. C'è poi il 60enne milanese, ciclista anche lui, che ammiccando accenna al problemino che non avrebbe voluto mettere in piazza. Per un italiano non è facile ammettere cure per la fecondità, testosterone assunto prima della gara. C'è poi il 40enne napoletano, culturista, ghiotto di bistecche da cavallo, che dice le avrei fatte analizzare se avessi immaginato che contenevano ormoni. C'è di tutto, insomma, negli oltre 400 fascicoli che nell'ultimo anno sono stati istituiti dalla procura antidoping del CONI. Parla, in questo caso, il colonnello Zapparoli, che guida l'unità antidoping dei NAS. Gli indagati partono subito con le scuse più improbabili. ma appena li metti alle strette esce la verità, han ceduto volontariamente al doping. Nella rete dei controlli e delle indagini casca un atleta ogni 20 ore. In 9 casi su 10 si tratta di un amatore, l'età media è 46 anni, ma si arriva a punte di 80 anni. La distribuzione geografica è estesa, Sicilia e Toscana guidano la lista dei più dopati. Il profilo sociale è variegato dal manager al bracciante agricolo. Gli sport più colpiti sono culturismo, ciclismo, running. E questa è l'inchiesta, ci sono dati, numeri. Molto interessante, dal manager al bracciante agricolo fino ai pensionati, in Italia un atleta ogni 20 ore cade nella rete dei controlli antidoping e lo trovate a pagina 18 del Corriere della Sera. Qui invece c'è una storia da raccontare, finita sui giornali e finisce sul secolo XIX, è la storia che riguarda l'ex ammiraglio dello Stato Maggiore, capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio De Giorgi, che per la verità anche noi stavamo cercando per la puntata dei migranti, ma che si è scoperto dove è finito. Si trova in Gabon in questo momento. Dal 3 luglio, cioè da lunedì, partirà da ex capo di Stato Maggiore della Marina, anche invischiato in un'inchiesta dal quale peraltro poi è stato prosciolto e quindi scagionato, poi è stato accusato di una gestione della Marina per così dire personalistica, come racconta Mariano Alberto Vignali sul Secolo XIX a pagina 11, accuse che andavano da noccioline e champagne a bordo di tutte le navi per soddisfare il suo palato. Si parlò anche addirittura di un fantomatico cavallo bianco che avrebbe dovuto salire a bordo di una portaerei italiana a New York. Insomma, di questo lui poi dice qualcuno pagherà, ci furono le lettere di un corvo. Ma che fine ha fatto appunto l'ex capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana? Dal 3 luglio da Gabon salperà con gli eco-guerrieri di Sea Shepherd, cioè gli ambientalisti antibaleniere che vanno contro tutte le navi che vogliono cacciare le balene. Dal 3 luglio mi imbarcherò da Port Gentil in Gabon sul Barker, ex baleniera norvegese del 1950, parte della flotta di Sea Shepherd, il cui simbolo è un teschio, come proprio i pirati. Sono l'ultimo comandante della flotta repubblicana, offeso dai media, vilipeso da corvi anonimi, e avrò la vendetta in un modo o nell'altro, dice De Giorgi di se stesso e poi della sua nuova avventura. I miei compiti a bordo saranno di ufficiale di guardia di plancia e di pilota di Zodiac per gli abbordaggi e le ispezioni di grandi pescherecci oceanici che operano nelle acque del largo dell'Africa occidentale equatoriale. La missione del Barker è perfetta per un ufficiale di una marina da guerra, perché si tratta di combattere in mare per una buona causa, cacciare i bracconieri che uccidono specie marine in pericolo di estinzione e difendere la salute degli oceani. È la nostra ultima frontiera. Ecco allora la nuova vita dell'ex capo di Stato Maggiore della Marina, De Giorgi, che Giuseppe De Giorgi, che si unisce ai pirati. Ecco, ovviamente è una forzatura, ma si unisce ai pirati di Sea Shepherd e caccerà i cacciatori di balene. Oh, torniamo in Italia, c'è questa vicenda che era finita sui giornali, una brutta rissa tra un ex pilota della Ferrari, Eddie Irvine, e il figlio del ex sindaco Letizia Moratti, Gabriele Moratti, in un sindaco di Milano, in un locale. C'è uno strascico giudiziario di questa vicenda. Emilio Randaccio racconta su Repubblica questa storia che finisce così. La strana pena di Irvine farà scuola guida sulla neve. Ebbene sì, deve scontare una condanna per lesioni a 6 mesi, affidato in prova darà lezioni all'ACI di Livigno, che è una località in montagna, per guida di motoslitte sulla neve. Questa è la pena, 6 mesi. Eddie Irvine, racconta Repubblica, per un po' dovrà abbandonare la residenza alle Bahamas. Non prima del prossimo anno l'ex pilota della Ferrari lascerà la sua attività da imprenditore immobiliare per pagare un debito con la giustizia italiana. 6 mesi di condanna definitiva. L'accusa lesioni gravi, colpa di una rissa. Nel dicembre 2008, nel privé della discoteca milanese Hollywood, vecchi rancori trascinati in un violento faccia a faccia col figlio dell'allora sindaco di Milano, Letizia Moratti. Il figlio era Gabriele. è Gabriele. Gli inviti a una conciliazione sono caduti nel vuoto, un bicchiere sbattuto sull'orecchio del pilota era costato a Irvine la rottura di un timpano. Per il giovane Moratti invece la serata si era conclusa con alcune ferite al volto. Colpa di entrambi, hanno sancito i giudici. Sentenza definitiva e Moratti ha già chiesto l'affidamento in un centro per la cura degli animali. Mentre l'avvocato di Irvine ha ufficializzato il modo in cui intende far scontare la pena al suo illustre cliente, oggi 51enne. Sarà impegnato nel centro tecnico federale dell'ACI di Livigno, specializzato in ghiaccio e sport. Insegnerà aspiranti piloti a guidare su situazioni di strada estreme. Questa è la vicenda, come si è conclusa o come si concluderà. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, sono sul Fatto Quotidiano a pagina 9, nel giorno in cui abbiamo sentito anche nel giornale radio, ho sentito Mario Dinolfi, c'è un cardinale, il cardinal Pell, che sta per essere indagato per reati sessuali molto gravi dall'Australia, vecchie inchieste. Questa notizia di Francesco Antonio Grana proviene sempre dal Vaticano. Festini gay e droga all'ex Sant'Uffizio, cioè l'ex Santa Inquisizione. Fermato un monsignore, ora è in convento. Si parla di un festino gay a base di droga, scoperto dagli uomini della Gendarmeria Vaticana, dunque le forze dell'ordine in Vaticano, le guardie svizzere, ecco, giusto per parlare, in un blitz all'interno di un appartamento del palazzo dell'ex Sant'Uffizio, proprio lì dove per un quarto di secolo l'allora cardinale Ratzinger ha svolto il suo incarico di prefetto della Congregazione per la dottrina della fede prima di essere eletto Papa, ebbene è stato fermato un inquilino dell'appartamento che, a quanto raccontano in Vaticano, è un monsignore, segretario di un importante porporato a capo di un dicastero della Curia Romana. L'uomo, fermato dalla gendarmeria, è stato prima ricoverato e attualmente in ritiro spirituale in un convento in Italia. Eccolo qua, festini gay e droga all'ex Sant'Uffizio. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Cazzeggiando al mattino, l'ultimo libro di Alessandro Mira. Va bene, caffeggiando, ho capito bene il caffè. Ah, va bene, no, perché si capisce un po' male nel... Allora, siamo qui a parlare di immigrazione, è il tema che affronteremo anche più avanti, approfondiremo alle 8:15. La proposta che ieri era trapelata dai giornali ora si fa più concreta. L'Italia sta pensando di chiudere i porti alle navi straniere. Come tecnicamente questo sia possibile in un'Europa aperta, ora andrà visto. Forse è anche un modo per alzare un po' la pressione sull'Unione Europea. L'annuncio però è arrivato da parte dell'ambasciatore italiano a Bruxelles: basta approdi per le navi delle ONG straniere. Questa è la posizione dell'Italia. C'è un colloquio che Carlo Bonini di Repubblica fa con il ministro dell'Interno Minniti. Titolo dell'articolo a pagina 3: il limite è raggiunto, noi non ululiamo alla luna, l'Europa faccia sul serio. Dice Minniti in questo colloquio con Repubblica: quello che stava accadendo nel Mediterraneo centrale, quello che accadrà nelle prossime ore nei nostri porti e lungo le nostre coste, richiedeva la mia presenza qui a Roma e decisioni immediate che sono state prese. Ho sempre detto e ripetuto che non si può separare l'imperativo morale della salvezza in mare di vite umane dall'obbligo di provvedere alla loro accoglienza. Farlo significherebbe piegarsi a un'ipocrisia che non mi appartiene. Noi, arrivati a questo punto, ci troviamo a fronteggiare una pressione fortissima che sosteniamo da soli. E aggiunge anche Minniti: con molta franchezza e chiarezza abbiamo spiegato al commissario europeo che il tempo è finito, che l'Italia non auspica ma attende entro i prossimi giorni, a cominciare dal vertice dei ministri dell'interno a Tallinn, segnali concreti che dimostrino che si intende passare dalla solidarietà di facciata a quella concreta. Minniti poi guarda la Francia, perché la Francia con Macron è il primo stato che effettivamente ha detto bisogna fare qualcosa, non si può lasciare solo all'Italia. Quando Macron ha detto a Bruxelles che l'Italia in questi anni è stata lasciata sola, dice Minniti, l'ho considerato un fatto straordinario. Sono certo che la Francia si muoverà dunque con coerenza. Ecco la frase, come dire, ok, l'ha detto, agisca di conseguenza, cioè faccia qualcosa. Tra l'altro, La Stampa fa notare in un articolo di Niccolò Zancan, reportage da La Valletta, dunque Malta. Volete sapere, è vero, Malta è piccolina, si potrebbe parlare di Spagna, di Grecia, ma giusto Malta, perché è quest'isola lì incardinata nel Mediterraneo, si potrebbero portare invece che a Lampedusa, invece che sulle coste siciliane, si potrebbero portare anche a Malta alcuni dei migranti, per carità, non tantissimi. Ebbene, l'Eldorado nel cuore della tempesta. Vi faccio un quiz. Sapete quanti profughi ha accolto Malta nel 2017? Provate a sparare un numero. Dai, vi lascio 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Avete un'idea? Non so, 100, 1000. Zero. Zero. Una bella O tonda. La città della pace, che nome ironico, Peaceville, per questo delirio di ragazze e ragazzi in festa permanente. Quattro gru in movimento per costruire palazzi, qualcuno spara fuochi d'artificio. Inizia così il reportage della Stampa da Malta. Ci sono 38 gradi, musiche diverse ti colpiscono, il Garden Hotel, il Paranza Restaurant, pizza, pasta e cannelloni. Questo è l'Eldorado per quel che riguarda l'accoglienza migranti. Numero di migranti accolti nel 2017, zero. Così mi dice Mark Michalef, giornalista e firma di punta del Times of Malta, conosce ogni storia dell'isola, si è imbarcato più volte per rendersi conto personalmente di quel che accade in mezzo al mare. L'anno con più migranti, 2005, 4.000 sbarchi. L'anno scorso, 1.500 domande d'asilo, tutti arrivati in aereo. Eppure questa piccola isola di 420.000 abitanti sta diventando il centro di molti nuovi affari. Numero di sbarchi, zero. Poi ci sono giornali come Il Fatto Quotidiano che accusa Minniti si piega alla destra, Il Manifesto con intervista al responsabile di MSF, Medici Senza Frontiere, Michele Trainiti, che dice: è vero, c'è un sensibile aumento delle persone che si imbarcano dalla Libia, lo vediamo ogni giorno, era previsto. Lui che è il coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso della nave Prudence di Medici Senza Frontiere. Ci sono numeri importanti, ma se l'Italia chiudesse i porti, dice intervistata da Rachele Gonnelli al Manifesto, non abbiamo nessun tipo di comunicazione in questo senso. Sono notizie rilanciate dai giornali. Niente di concreto. Chiudere i porti sarebbe una non soluzione, perché cosa potremmo fare? Lasciare le persone sulle navi? E poi? Sono anni che aspettiamo un'iniziativa dell'Unione Europea per la ricerca e il soccorso delle persone in mare. Invece, di fronte a un flusso storico, alla chiusura di altre rotte, alla mancanza di alternative, ci sono sempre più partenze su questa che è la tratta più pericolosa di tutte nel Mediterraneo centrale. Questo responsabile di MSF dice al momento solo parole. Effettivamente sono arrivate in 48 ore 12.000 persone. Mattarella, anche il capo dello Stato in Canada, dice si rischia una situazione ingestibile, ma la situazione rimane immobile per il momento. Vabbè, di politica parliamo poco, anche lì è un po' immobile la situazione. Tra l'altro ho scoperto questa notizia straordinaria e sensazionale. La legge elettorale è stata rinviata a dopo le ferie. Peccato, proprio nella 28 settimana decisiva per il rinnovo della legge elettorale, tutto rinviato dopo le ferie. Mannaggia, ragazzi, Mauro Meazza, ma qua non... Vabbè, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Ma sei deluso da questa circostanza? Ma no, non lo so, io conto. Siamo anche nella 217esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, ti ricordo, di questa legislatura. La questione lì è più complessa e poi ci sono anche dei danari che servono per le province, perché ci sono delle mansioni che non sono state abolite, eccetera. Ma a proposito di denari, scusami. Sì, domani. Che bella giornata domani. Tax day, 61 miliardi, tu quanto puoi mettere? Eccolo perché, qua. Entro domani in calendario ci sono 68 versamenti, lo spieghiamo sul Sole 24 Ore di oggi, perché domani chi è che ha partorito la giornata di domani? Non lo so, era il calendario, dopo per una serie di circostanze siamo arrivati a 68 versamenti, IVA, IRPEF, eccetera eccetera. Comunque trovi anche uno specchietto, ti spieghiamo tutto in pagina 2 del Sole 24 Ore. Sappi, perché non vorrei che tu me lo stessi trascurando, che poi sabato comincia l'allargamento dello split, dello payment. Split. Oh, meno male, cominci a familiarizzare con questo termine. Guarda che ci sono, c'è un decreto del Ministero dell'Economia in arrivo, ne riferiamo su norme e tributi importante per tutti coloro, specialmente i professionisti, che dovranno confrontarsi con questa queste abitudini un po' cambiate. Oh, essendo giovedì, caro Alessandro, c'è casa 24. Certo. E sappi che c'è un buon segnale, perché è diventato più facile, più veloce, sono diventate più veloci le vendite delle seconde case, delle case al mare. Peraltro ti segnalo anche dalle pagine Imprese e Territori che tu già hai letto scrupolosamente. Anche compulsivamente, che però i consumi, ad esempio, per quanto riguarda l'andamento dei consumi, non sono così, come dire, entusiasmanti. Diciamo che c'è sempre una crescita molto bassa, una domanda molto debole, ma trovi tutto nelle pagine che già tu hai letto, invito anche i nostri ascoltatori a leggere. Oh, poi c'è un altro invece un buon segnale, quello degli ingegneri. Hai visto che gli ingegneri sono tornati ad avere assunzioni nell'ultimo anno più consistenti di quelle che avevano prima della crisi, quindi 26.540 assunzioni per gli ingegneri. Però attenzione, leggi poi Giuseppe Latour a pagina 32, perché ti spiega che alcuni settori vanno meglio e altri vanno peggio. Tu devi sempre religiosamente approfondire su norme e tributi. Ti invito sempre a farlo, anche per il tuo benessere, caro Alessandro. Inoltre invece, allora una notizia un po' meno buona, potremmo non aggiudicarci come Italia l'agenzia del farmaco, perché c'è questa candidatura di Bratislava che verrebbe preferita all'Italia. Vedremo come andrà a finire. Concludo questa brevissima segnalazione, questa antologia proprio delle cose notevoli a mio personale parere, con l'indicazione della Guardia di Finanza ai reparti per i controlli durante l'estate. La trovi naturalmente sulle pagine di norme e tributi. Verranno particolarmente presi di mira gli abusivi, quindi vendite abusive di alimentari, di servizi vari, eccetera, ma anche l'uso scorretto del bonus cultura. Quindi attenzione a non usare il bonus cultura per altre cose che non sono quelle consentite. La Guardia di Finanza ti guarda, caro Alessandro. Ah, va bene. E con tutto questo, tutto ciò premesso, traffico! Alessandro Milan! Non ce la faccio più, andiamo a vivere su un altro pianeta. Dell'informazione. No, caro ascoltatore, ma bella questa sigla al 349-238-6666, mandatele anche voi, mandate la vostra. La politica. Allora, Renzi sembra sempre più accerchiato, questo dai grandi leader del centrosinistra, Veltroni, Prodi, Franceschini, con il quale c'è un malumore, una zizzania, questo almeno raccontano i giornali, Maria Teresa Meli nel retroscena consueto su quello che succede a casa Renzi, il sospetto di Renzi dopo gli attacchi, non mi vogliono far arrivare in piedi alle politiche, mettere in discussione le primarie dopo neanche due mesi significa voler distruggere tutto. Vogliono far passare l'idea che a me interessa solo tornare a Palazzo Chigi e sacrifico la linea politica del PD a questo. È inaccettabile. Questa è la posizione di Renzi. Lotti lo difende dicendo è stato scelto alle primarie e quindi basta, da 2 milioni di persone. Stoppa così Franceschini. Chissà se succederà. Ce la farà Lotti a fermare le polemiche interne. In ogni caso, fibrillazione, vi piace questa parola che rispolvero, fibrillazione del Partito Democratico. Tra l'altro, la notizia forse più interessante di retroscena, Goffredo De Marchis la racconta a pagina 6 di Repubblica, Renzi ha deciso di spostare il proprio ufficio nel Nazareno. Non più al secondo piano, ma al terzo piano, un po' più isolato, con la porta blindata e le videocamere. Il leader cambia stanza e ora il bunker è realtà. Anche per evitare il via vai continuo, la mancanza di privacy, la fila di questuanti che si accompagnano al potere, Renzi sposta l'ufficio e lo rende più isolato all'interno del Nazareno. È interessante. Comunque, se ci spostiamo a Torino, invece, la notizia è che il sindaco di Torino, Chiara Appendino, è indagata. è indagata per la vicenda della notte di Piazza San Carlo. C'è da dire che tutti i giornali raccontano di un atto dovuto dopo le denunce di alcuni cittadini che sono rimasti lesionati soprattutto dai cocci di bottiglia in quella serata. Abbiamo denunciato l'amministrazione, è responsabile di quel che è successo. Parla l'avvocato Tiziana Sorriento, avvocato del Codacon Sattorino, che si è rivolta ai PM. Mancavano i controlli. Beh, certo, intanto c'è una donna morta, ma oltre 1500 feriti, una montagna di querele che si trasformeranno in altrettante citazioni per danni. Avvocati che si stanno muovendo, clienti che hanno riportato la frattura del femore, clienti che hanno riportato tagli, clienti che hanno portato lesioni, alcuni dicono addirittura lesioni permanenti. E quindi ecco le denunce e ecco che Appendino è indagata per abuso d'ufficio. Vedremo come va questa vicenda. Io mi voglio spostare all'estero però, perché all'estero, soprattutto in Venezuela, c'è questa vicenda un po' misteriosa che ha visto una sorta di golpe surreale del capitano dell'aviazione Oscar Perez in Venezuela, appunto, che per protestare contro Maduro, il presidente, ha portato un elicottero sul tetto del Tribunale Supremo di Caracas, la Corte Suprema, con uno striscione con richiesta di libertà, anche un lancio di granate un po' fittizio. Subito dopo, questo ufficiale, che tra l'altro è un ufficiale dell'esercito misterioso, anche attore, definito un playboy, è svanito nel nulla, tanto che ci si interroga sul senso di questo golpe surreale. Qualcuno addirittura, beh, ovviamente il regime Maduro l'ha accusato di tutto ciò, la CIA, gli stranieri, l'America. Qualcuno dice che potrebbe essere addirittura un autogolpe, una farsa, una messa in scena per poter dare il via da parte di Maduro di una repressione, questa volta invece vera. C'è mistero, insomma, su questo golpe di Oscar Perez, detective della polizia scientifica venezuelana, ma anche attore. Già il personaggio è abbastanza mistico, come viene raccontato per esempio da Emiliano Guanella, pagina 16 della Stampa. E comunque il dato di fatto che in Venezuela, questa è la certezza, c'è un popolo allo stremo delle forze, c'è molta miseria, c'è molta violenza, ci sono anche molti pochi diritti. E di questo i giornali parlano forse un po' troppo poco. Che dire del Papa? Il Papa ha detto è mio per far lavorare troppo gli anziani e ha elogiato anche la cultura dell'ozio. Ah, come mi divertirò con Oscar tra poco, la cultura dell'ozio, lui che è per il lavoro, lavoro, lavoro. Forse la cultura dell'ozio l'hanno applicata anche i 50 furbetti del cartellino del comune di Piacenza, dipendenti comunali pizzicati perché timbravano e andavano in palestra, smascherati 50 furbetti, questo è il titolo di Franco Giubilei sulla Stampa, pagina 18, è l'ennesimo caso, ce ne sono tanti, per carità andranno fatti i processi, bisognerà vedere se è tutto vero, però pizzicati 50 furbetti a Piacenza timbravano e andavano a farsi i fatti propri. Va bene, siamo all'articolo che vince il premio La Carta Costa. Sorrido perché voi non potete vedere le immagini, ma le vedo io. Avete mai pensato, come racconta Miriam Romano sul Libero, pagina 19, a farvi fare un massaggio da cavallo? Proprio come i massaggi che vengono fatti i cavalli, i massaggi per allungare i muscoli, i massaggi per drenarli, i massaggi per ammorbidirli. Una terapia che fa bene all'animale e a chi la fa. Fate un bel massaggio a un cavallo. Mezza pagina del Libero, del quotidiano Libero. Massaggio da cavallo. Ma chi se ne frega!